pare miografia. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle S Nuovo Testamentoense sono come chiodi ben pii a Nuovo Testamento Antico Testamentoi, Ecclesiaste 11 e 13. 1. Non hai il dono di saper parlare? Allora Dio ti chiama ad ascoltare. 2. Dio fa grandi cose con ciò che è piccolo. 3. Noi abbiamo di Dio quel tanto che vogliamo. TT. 4. Spesso Dio ci affida piccole cose per vedere quel che faremo con le grandi. 5. Dio non chiama sempre i più capaci, ma rende capaci quelli che chiama. 6. La vita è come una moneta. Puoi spenderla come vuoi, ma una volta sola. 7. Vivere senza Dio significa morire senza speranza. 8. La scontentezza rende povero anche l'uomo ricco, mentre la contentezza fa ricco anche un uomo povero. 9. Un matrimonio felice è l'unione di due persone che si perdonano volentieri. 10. Chi non sa perdonare rompe il ponte sul quale egli deve passare. 11. Là dove spende sempre il sole vi è un deserto. 12. Bisogna servire Cristo, non servirsi di Cristo. 13. Vivi ogni giorno della tua esistenza come se Cristo fosse morto ieri, risorto oggi e pronto a ritornare domani. 14. La felicità non porta con sé sempre la riconoscenza, ma tutti coloro che sono riconoscenti sono felici. 15. Chi si prende tempo per pregare ha anche tempo per ogni altra cosa da fare. 16. Coloro che sono soddisfatti di sé non vogliono pregare. Coloro che sono autosufficienti non hanno bisogno di pregare. Coloro che sono convinti di sé non possono pregare. 17. Dobbiamo pregare quando siamo ben disposti perché sarebbe un peccato sciupare una così buona occasione. E dobbiamo pregare quando non siamo ben disposti perché sarebbe pericoloso continuare a rimanere in uno stato così insano. 18. Sono troppo occupato, disse Lutero, per poter pregare meno di 3 ore al giorno. 19. Soltanto Dio può spostare le montagne, ma la fede e la preghiera spostano Dio. B. 20. La preghiera rafforza i deboli e indebolisce i forti. 21. Noi usiamo la preghiera come preparazione per il nostro lavoro, ma questo non ci viene insegnato nella Bibbia. 22. L'uomo dice, Signore, io ho pregato, pregato e pregato, e tu non hai risposto. Dio dice, Figliolo, io ho risposto, risposto, risposto, perché non hai ascoltato? 23. La saggezza è la ricompensa che ricevete per aver passato il vostro tempo ad ascoltare quando invece avreste avuto voglia di parlare. 24. I genitori possono parlare sempre, ma potranno insegnare solo quelle cose che hanno sperimentato. 25. È più facile acquistare una buona reputazione che perderne una cattiva. 26. Un diamante è un pezzo di carbone che è stato trasformato e raffinato attraverso una grande pressione. 27. Dio senza l'uomo è sempre Dio, l'uomo se... 28. Preoccuparsi significa coprire il sole con le nuvole di domani. 29. Il peccato non è dannoso perché è proibito, ma bensì è proibito perché è dannoso. 30. Non è il battesimo che fa il cristiano, ma il cristiano che fa il battesimo. 31. Una mala lingua è come una tagliatrice che diventa sempre più tagliente man mano che viene usata. 32. Signore, aiutami a credere che oggi non potrà succedere nulla che noi due assieme non possiamo superare. 33. Prima di parlare agli uomini di Dio, presenta a Dio gli uomini. 34. Una piccola falla può condurre una grande nave al naufragio. 35. La strada più aspra conduce spesso direttamente. 36. Sarebbe un vero disonore per un figlio di Dio di essere un favorito del mondo. 37. Dio, con grande pazienza, aiuta gli uomini a crescere, ma quando li chiama esige una decisione irrevocabile. 38. Sposta sempre al giorno dopo quelle cose che non dovresti fare. 39. I giovani cristiani commettono forse errori quando lavorano per il Signore. I loro errori saranno però ancora più grandi se non lavorano affatto. 40. Nessun uomo può cambiare la verità, ma la verità può cambiare l'uomo. 41. Nessuno può influenzare la lunghezza della sua vita, ma ognuno può decidere quale ne sarà. la profondità e la larghezza. 42. Raramente le persone migliorano quando non hanno altri modelli all'infuori di sé. 43. Da come tu affronti i problemi di giorno deriva come tu dormi la notte. 44. Le difficoltà della vita hanno lo scopo di renderci migliori, non più aspri. 45. Se tu sei solo, lo devi al fatto che hai costruito mura invece di ponti. 46. Ogni genitore dovrebbe ricordare che un giorno i suoi figli seguiranno il suo esempio e non i suoi consigli. 47. Impara dagli errori degli altri. Tu non puoi vivere tanto a lungo da farli tutti te stesso. 48. Possiamo fare più per gli altri allorché ci miglioriamo che quando critichiamo i loro errori. 49. Il miglior modo per un marito di aiutare. 51. Molti cristiani soffrono di solitudine perché se ne stanno con le mani in mano anziché. 52. Tutto ciò che possediamo la morte ce lo prende. Tutto ciò che facciamo la morte ce lo rende. 53. Chi inciampa si rialza più presto di chi se ne sta a giacere. 54. Per essere felici non occorre avere quello che si ama, basta amare quello che si ha. 55. Mi lamentavo perché non avevo le scarpe. Ho visto un uomo senza piedi e ho cessato di lamentarmi. 56. Il mondo è come l'arca di Noè, molte bestie, pochi uomini. 57. La menzogna è più credibile se è condita da qualche frammento di verità. 58. Una volta gli sbagli si chiamavano errori, oggi esperienze. 59. Quando una discussione dura troppo a lungo è segno che tutti hanno torto. 60. Intelligenti sono quelle persone che la pensano, come noi. 61. Per il galletto sulla torre, ogni vento è buono. 62. Errare è umano. Dare la colpa agli altri, ancora di più. Ehi, Block 63. Sarebbe meraviglioso se ognuno agisse come ritiene che l'altra persona debba agire. 64. Se una preoccupazione è troppo piccola per essere presentata in una preghiera, essa è anche troppo piccola per essere ritenuta un fardello. 65. Se vuoi sentirti ricco, conta tutte le cose che hai e che non puoi acquistare col denaro. 66. Se una chiesa vuole un pastore migliore, non deve fare altro che pregare per quello che ha. Il savio pensa senza parlare, lo stolto parla senza pensare. 67. Nutrisci la tua fede e il tuo dubbio morirà di fame. 68. La zanzara che si fa sentire più forte delle altre viene schiacciata per prima. 69. Vivi in maniera tale che quando parlano male di te, nessuno crederà a loro. 70. Non pregare per la pioggia se poi ti lamenterai del fango. 71. Non sono gli elefanti che procurano difficoltà agli uomini, ma le mosche. 72. Non dobbiamo solo sapere. 73. Un predicatore diligente edificherà la sua chiesa e una chiesa diligente edificherà il suo predicatore. 74. Quanto più gli elementi celesti prevalgono nel nostro modo di vivere, tanto più gli elementi terreni saranno offuscati. 75. Sei povero solo quando desideri più di ciò che hai. 76. La vita è troppo breve e l'eternità troppo lunga per restare fermi agli errori del passato. 77. Basta poco cervello per criticare, ma ce ne vuole molto per correggere. 78. Altri predicatori parlano perché hanno qualcosa da dire. 79. Il denaro guadagnato disonestamente non vale ciò che costa, mentre una buona coscienza non costa mai quanto vale. 80. La solitudine è nostra amica quando ci spinge a godere della comunione con Dio così come godiamo della comunione con gli altri. 81. Noi spesso non gradiamo una persona per ciò che essa è, ma per ciò che noi siamo. 82. Alcune persone devono ancora imparare che non possono viaggiare nella direzione sbagliata per raggiungere la destinazione giusta. 83. Molti studiano più i fallimenti del prossimo che la Bibbia. 84. Tu non riconosceresti mai una persona se riderebbe soltanto. 85. Ciò che sarai domani dipende da ciò che sei e fai oggi. 86. Il modo migliore di vivere per Dio è di morire per Lui. 87. Non ci sono indossatori di corona in cielo che non siano portatori di croce sulla terra. 88. Chi non sa curare le proprie cose non può e non sarà nemmeno un buon curatore delle cose di Dio. 89. Colui che pensa solo alla sua vita terrena ma non pensa all'eternità è saggio per un momento. ma stupido per sempre. 90. Non maledire le tenebre. Invece accendi una candela. 91. Chi cerca Dio fuori di Gesù Cristo trova il diavolo. 92. La forza di seduzione della menzogna sta in quella parte di verità che sempre essa contiene. 93. Siamo liberi di decidere quando cominciare a peccare, ma non siano liberi di decidere quando smettere di peccare. 94. Quando ringraziamo, pensiamo alle possibilità di Dio. Quando ci preoccupiamo, pensiamo alle possibilità del diavolo. 95. Guarda il mondo in Dio, e non Dio attraverso il mondo. 96. Il peggior momento per un ateo è quando si sente grato e non sa chi ringraziare. 97. Non basta aver grandi qualità, bisogna saperle spendere bene. 98. Chi crede che il suo tempo sia troppo prezioso per essere perso nell'ascoltare il prossimo non avrà mai veramente tempo per Dio. 99. Non parlare di problemi, parla di soluzioni. 100. Il cristiano è un brutto anatroccolo. Icridie. 101. L'uomo che non varia mai è simile ad acqua stagnante, da lui nascono le serpi dell'anima. 102. Nulla si regala tanto generosamente quanto i propri consigli. 103. 104. Ciò che a molti rende difficile resistere alla tentazione è che non vogliono scoraggiarla del. I vecchi amano dare buoni consigli per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi. Tutto. 105. L'uomo fa le regole per gli altri e le eccezioni per sé. 107. Non capisco cosa servono gli orari, se arrivano sempre in ritardo, disse qualcuno. Come faresti a sapere che i fratelli sono in ritardo se non ci fossero gli orari? 108. Un'affermazione falsa che goda di un ampio consenso è molto difficile da sradicare. E quanto meno la si comprende, tanto più la si difende. 109. Tutti i discepoli sono credenti, ma non tutti i credenti sono discepoli. 110. Le virtù di mia moglie mi attirano verso di lei, i suoi difetti mi spingono verso Dio. E, 111, se la Chiesa non ha più il coraggio delle sue idee, non è per mancanza di coraggio, ma per mancanza di idee. 112, se chiedi a Dio di darti l'umiltà, preparati a ricevere le umiliazioni. 113. La verità ci difende gratis, la menzogna invece prima o poi ci presenta il conto. 114. L'incapacità di andare d'accordo e il rancore sono i peccati largamente diffusi, specialmente fra le persone pie. 115. Chi ha rinunciato a tutto non ha più l'unico diritto che gli resta è quello di. 116. Tutti i cristiani possono cadere in errori dottrinali, ma solo i teologi sanno difendere i loro con abbondanza di argomenti dotti. 117. Quando il diavolo non riesce a impedire che si dica una cosa giusta, cerca di fare in modo che il primo a dirla sia la persona sbagliata. 118. Fino a che non riesco a vedere Dio, nego la sua esistenza, disse l'ateo al credente. Se non hai altri motivi che questo, rispose il credente, allora io per la stessa ragione nego la tua intelligenza. In chi ha abitudini buone, è più difficile che entrino idee cattive. 119. 120. Non ti preoccupare per i passi della Bibbia che non capisci. Preoccupati per quelli che capisci e non metti in pratica. 121. Attorno ad un uomo debole le donne diventano nervose. Titti 122. Un problema rappresenta costantemente un segno. L'avvertimento che esiste una scoperta più profonda da fare, un ordine nuovo da scoprire, che ribalterà gli stessi dati del problema. 123. L'uomo è una lingua in cui Dio può essere tradotto. 124. Chi cerca di fare qualcosa trova un sistema. Chi cerca di non fare niente trova una scusa. 125. Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. 126. Viviamo in un mondo dove le cose più importanti sono le più inutili. 127. E, più importante è sapere da Dio quello che vuole da me, piuttosto che dire a Dio quello che deve fare per me. Il desiderio di avere una morte senza preparazione si adatta bene a una vita senza senso. 128. Chi parla di dovere in genere intende quello di qualcun altro. 129. 130. E, bene conoscere la parola di Dio, meglio ancora conoscere il Dio della parola. 131. Non lamentarti perché non ricevi quello che vuoi, sii invece lieto di non ricevere tutto. Quello che ti meriti per i tuoi errori. 132. L'intel quanto più è profondo, tanto meno è rumoroso. 133. Non dovremmo mai criticare gli errori commessi da quelli che fanno ciò che noi stessi dovremmo fare. 134. Nessun uomo può vivere solo senza impoverire gli altri. 135. Un cristiano non è un soldato che cerca una legge, ma un figlio che cerca un padre. 136. Nessuna vita può realizzarsi pienamente, se non è pienamente accettata. Q137. Per natura il tuo primo gesto non può essere il dono. Ti occorre un lungo sforzo per passare dal gesto di prendere al gesto di donare. Q. Il potere e la grandezza dell'uomo non consistono nel suo avere, ma nel suo essere. 138. 139. Gli uomini hanno bisogno di interlocutori che riconoscano i loro limiti per poter riconoscere i propri. 140. Dio non semina se non vuole il raccolto. Q. 141. Esiste il piacere ed esiste la gioia. Il piacere è la felicità del corpo. La gioia è la felicità dell'anima. Il piacere infatti non esiste là dove vive la sofferenza, mentre la gioia può accompagnarsi ai più grandi dolori. Q. 142. Il dramma dell'uomo consiste nell'essere limitato nei suoi mezzi e illimitato nei suoi desideri, perciò umanamente non può essere felice. Q. 143. Tutto ciò che è rinchiuso fermenta. Q. 144. Tu dici a Dio di aver fiducia in Lui e impieghi il tuo tempo a provargli il contrario, creandoti delle preoccupazioni. Q. 145. Tu hai molto tempo a disposizione, ma lo impieghi a perdere il tuo tempo. Q. 146. Dio non ci affida un lavoro senza offrirci i mezzi per compierlo. Q. 147. Si ha sempre il tempo di fare ciò che Dio ci dà da fare. 148. Per dare un riparo agli uomini vale meglio una capanna già costruita che sontuosi palazzi allo stato di progetto. Q. 149. Se vuoi realizzare la tua vita, rimetti il passato nelle mani di Dio, lasciagli il futuro e vivi pienamente l'attimo presente. Q. 150. Se agisci per amore della verità, sarai deciso di convincere qualcuno non per dimostrargli che ha torto, ma per aiutarlo a scoprire la verità. Q. 151. Come può l'uomo discendere dalle bestie quando questi, se non vive da uomo, diventa peggio di una bestia? E. 152. Non potrai mai peccare per amore, se pecchi. Q. 153. Se sei rimasto deluso è perché prima ti eri illuso. E. 154. Non potete essere sposati in tre, il tuo sposo, tu ed il tuo sogno. Se vuoi sposarti con serietà, divorzia dal tuo sogno. Q. 155. Se non puoi costruirti un castello, puoi almeno costruirti una capanna. Ma non ti troverai bene nella capanna fino a quando sognerai ancora il castello. Q. 156. Forse lui ti ha sposato perché ti desiderava per sé. Tu lo hai sposato perché lo desideravi per te. E i vostri egoismi si sono incontrati per un attimo dandovi l'illusione dell'amore. Q. 157. Gesù Cristo, venendo in terra, ha incontrato tre creature di cui il Padre non era il creatore. Il peccato, la sofferenza e la morte. Q. 158. Ciò che è odioso per l'uomo, quello che egli non può sopportare, è di soffrire per nulla. Nel 1906 Shackleton, celebre esploratore, pubblicò su un quotidiano il seguente annuncio. Cercarsi uomini per viaggio rischioso, stipendio irrisorio, freddo intenso, lunghi mesi di completa oscurità, pericolo costante, ritorno incerto, onori e riconoscimenti in caso di successo. Fu sommerso da risposte. 159. Gesù non ha preso la croce che ha voluto, ma quella che gli hanno messo gli altri. 160. L'Evangelo forma, non solo informa, e 161. Diffida dell'evasione attraverso le vette. 162. E meglio che ti rischi di insudiciarti un po', camminando, piuttosto che di morire seduto. Q. 163. Se un uomo sta annegando, non perdere tempo ad insegnargli a nuotare. Tiralo fuori dall'acqua, poi insegnagli a nuotare. 164. L'intelligenza può farti fare un tratto di strada verso la fede, ma non può darti la fede. 165. Non essere né taciturno né loquace, ma sì colui che parla per impegnarsi e colui che ascolta per raccogliere e comunicare. 166. Colui che cerca di ottenere sempre qualcosa dall'essere amato, non è un innamorato, ma un commerciante. 167. Bisogna voler pregare, e voler pregare è pregare. E ter che avevi fiducia in te e hai constatato con dolore che non puoi contare su te stesso. 170. Chiedi al tuo amore se ama l'amore. 171. Ama e fa quello che vuoi. 172. È grave restare a terra quando si è caduti, ma è altrettanto grave restare seduti sul ciglio della strada ritenendo di essere arrivati. 173. Dio è sempre amorevole e potente sia prima che dopo la caduta. 174. La bruttura del peccato si misura di fronte a Dio. 175. Gli uomini più felici sono quelli che scoprono che quello che stanno facendo proprio ora è esattamente quello che dovevano fare. 176. Molte persone usano la lingua per esprimere i loro pensieri, altre impiegano per nascondere i loro pensieri, ed altre ancora la utilizzano al posto dei loro pensieri. 177. La fede fa il cristiano, la vita lo prova, la pace e la gioia sono i suoi possedimenti. Le tentazioni lo formano e la gloria lo incorona. 178. Possiamo essere migliori della reputazione di cui godiamo, ma non possiamo mai essere migliori dei principi che pratichiamo. 179. Chi non si sottomette a Dio non può nemmeno rendere Dio responsabile per la sua protezione. 180. Quando perdoni non sempre risolvi la situazione, ma comunque risolvi sempre il tuo problema. 181. L'uomo è bambino quando l'uomo è vecchio. Quando una donna non può renderlo né infelice né felice. L'uomo è maturo quando una donna può renderlo solo felice e non infelice. 182. Puoi cacciare Dio dalla tua mente, ma non dal creato. 183. 184. Io sono eterno finché non avrò compiuto l'opera di Dio. Il nostro Padre ci ristora, nel viaggio, in alcune piacevoli locande, ma non ci incoraggia mai a scambiarle per la nostra vera casa. 1000 L. 185. Perché la nostra volontà possa sottomettersi a Dio, dobbiamo innanzitutto avere una volontà. DL. 186. Dio non è orgoglioso, si abbassa per conquistare, ci vuole avere anche se ci rivolgiamo a Lui solo perché non abbiamo trovato niente di meglio. Non è certo un complimento per Dio che noi lo scegliamo come alternativa all'inferno, eppure Lui accetta anche questo. L. 187. Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nelle nostre coscienze ma grida nelle nostre sofferenze. DL. 188. Ogni tristezza che non nasca dal pentimento per un particolare peccato e non si affretti a riparare il danno o a risarcire L, offeso in modo concreto o che non nasca dalla compassione e si affretti a fornire un'attiva assistenza, è un male. IL. 189. Dio ci nega, per la natura stessa del mondo, la felicità stabile e la sicurezza che desideriamo tutti, ma di gioia, piacere e divertimento ne ha disseminati dappertutto. Il Allah. 190. Una mosca molesta può momentaneamente privare una persona della gioia, tanto quanto una gamba rotta e ingessata. J. 191. Per chi crede che tutto gli spetti di diritto, non ci è più regalo che lo appaghi. 192. Viviamo in un'epoca in cui le cose superflue sono le uniche necessarie. 193. La nostra vita pratica è la traduzione che facciamo della parola di Dio. Questa è la traduzione o interpretazione più convincente. 194. La grazia non abolisce la natura. 195. Com. È pericoloso avere ragione. Non esiste più possibilità di evolversi. 196. Un dilemma rappresenta costantemente un segno, l'avvertimento che esiste una scoperta più profonda da fare, un ordine nuovo da scoprire, che ribalterà gli stessi dati del problema. Il tuo rapporto con la Bibbia rispecchia il tuo rapporto con Dio. 197. Le colpe sono come i fari delle automobili, ci abbagliano solamente quelli degli altri. 198. 199. La presenza di un peccatore in paradiso renderebbe il paradiso un inferno. 200. Un vincitore può considerarsi tale soltanto quando ha ottenuto una vittoria sulla sua debolezza più grande. 201. L'uomo che possiede una Bibbia ma non la legge, non ha alcun vantaggio rispetto a chi non la possiede. 202. L'amore è utile. Innamorarsi dell'amore è un danno. E. 203. Non appena arriviamo a credere che Dio ci ama, subito nasce l'impulso a credere che ciò avvenga non perché Egli è l'amore, ma perché noi siamo intrinsecamente amabili. Lewis. 204. Amare significa in ogni caso essere vulnerabili, qualunque sia la cosa che vi è cara. Il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per causa sua e magari a spezzarsi. L'unico posto, oltre il cielo, dove potrete stare perfettamente al sicuro da tutti i pericoli e i turbamenti dell'amore è l'inferno. D.L. 205. La coppia il cui matrimonio ne rimarrà danneggiato, o addirittura distrutto, è quella che aveva fatto dell'eros, innamoramento, un idolo. 206. Quando l'eros, innamoramento, viene onorato senza riserve e obbedito, incondizionatamente, esso diviene un demone. Il piacere, spinto al suo estremo, ha su di noi lo stesso effetto devastante del dolore. Dina Lalle, 207. 208. Quando le cose terrene ci sembrano divine, dietro all'angolo spunta il demonio. 209. Chi non sta andando da nessuna parte non può avere compagni di viaggio. 210. Esiste la gioia del risentimento. Se qualcuno afferma di non aver mai provato questo piacere, di certo è un bugiardo o un santo. D.L. 211. Il più grande comandamento non è vivere secondo la propria coscienza, ma amare il prossimo come noi stessi. E. 212. Noi non onoriamo i morti morendo con loro. Li onoriamo con l'essere servitori di Dio e suoi amministratori, col vivere per Dio e per gli altri. 213. La mancanza della capacità di amare è simile alla condizione di vita dell'inferno. 214. Grazia è ricevere quello che non meritiamo, misericordia è non ricevere quello che meritiamo. 215. Sono i piccoli sassolini che fanno zoppicare un cristiano. 216. L'uomo non è né angelo né bruto. Disgrazia vuole che chi vuol fare l'angelo faccia il bruto. B. 217. Gli uomini sono agitati e turbati in Epit. 218. Avrei molto più paura di ingannarmi e di trovare poi che la religione cristiana sia vera, che di ingannarmi credendola vera. P. 219. La gente comune ha il dono di poter far meno di pensare a quello cui non vuol pensare. P. 220. Si può bensì conoscere Dio senza la propria miseria e la propria miseria senza conoscere Dio. Ma non si può conoscere Gesù Cristo senza conoscere a un tempo sia Dio sia la propria miseria. P. 221. A una mente retta non è necessaria una grande istruzione. 222. Dio è obbligato solo conforme alle sue promesse. P. 223. La conoscenza di Dio senza quella della nostra miseria produce l'orgoglio. La conoscenza della nostra miseria senza quella di Dio produce la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo rappresenta il giusto mezzo, perché troviamo e Dio è la nostra miseria. Peter Vianos 224. Gesù Cristo è un Dio a cui ci si avvicina senza orgoglio e sotto il quale ci si abbassa senza disperazione. P. 225. Una delle confusioni dei dannati sarà di vedere che sono condannati dalla loro ragione, con la quale hanno preteso di condannare la religione cristiana. P. 226. La tirannia sta nel volere ottenere per una via quel che si può avere solo per un'altra. P. 227. Non si ama mai una persona, ma soltanto certe sue qualità. P. 228. Un non nulla ci consola, perché un non nulla basta ad affliggerci. P. 229. Siamo così vanitosi che la stima di 5 o 6 persone che ci stanno d'intorno ci rende lieti e ci appaga. P. 230. Unisci al buon senso, il senso del buono. 231. Ricordati che la vita è una realtà, non un sogno. 232. L'uomo sereno giova più di un uomo dotto. I. 233. Lascia a chi è vano la vanità. I. 234. Spesso noi non sappiamo valutare le nostre forze e la tentazione ci fa vedere chiaro ciò che siamo. 235. Molti si piegano all'obbedienza più per necessità che per amore. I. 236. La carità deve esercitarsi con tutti, non così la familiarità. I. 237. Esiste una rivalità tra gli affetti naturali e l'amore dovuto a Dio. Dio è il grande rivale, l'oggetto ultimo della gelosia umana. Il L. 238. La correttezza di ciò che facciamo spesso viene giudicata dalla qualità emotiva generata dal nostro comportamento. In poche parole, se ti fa sentire bene, fallo. 239. Dio vuol darci quello di cui abbiamo bisogno, non quello che pensiamo di volere. 240. Molti cristiani vivono tutta una vita cercando di togliersi dal mondo, mentre dovrebbero togliere il mondo dalla loro vita. Il lavoro di Satana è farci sentire colpevoli di ciò che Dio ha dimenticato. 241. A molti cristiani, il Dio ha salvato l'anima, ma non ha avuto la loro vita. 242. Noi possediamo solo ciò che perdiamo per Dio. 243. 244. Spesso noi seppelliamo i nostri risentimenti vivi. 245. La nostra vita è troppo breve per viverla rovinata a causa il rancore per altri. 246. Il carattere di un uomo si conosce dai suoi nemici. 247. Il carattere di un uomo si conosce non dalle sue azioni ma dalle sue reazioni. 248. Non è vergognoso. 249. Spesso comprendiamo di più, riflettendo sui presupposti piuttosto che sulle risposte. 250. E, libero colui che riconosce i propri limiti senza rassegnarsi. 251. Seguire Gesù non vuol dire che la vita riesca sempre come la si è immaginata. 252. Chi legge la Bibbia per trovarci degli errori si renderà conto che la Bibbia trova degli errori in lui. 253. E, il piccolo sasso nella scarpa che fa. 254. Possiamo pregare sempre, lo so. Però temo che se non preghiamo a orari fissi, non pregheremo neanche nei momenti liberi. Nomi e chito qual sekelle. Il timore di Dio è la cura migliore contro il timore degli uomini. A sé, il nostro tempo e il tempo di Dio non vengono misurati con lo stesso orologio. A sé. 255. 256. 257. Gli errori diventano sempre grandi dove l'amore è piccolo. S. 258. Chi non vuole quando può, non potrà quando vorrà. S. 259. 260. Si parla del miracolo quando Dio batte i suoi record. 261. 262. Generalmente un uomo quando è saggio per sapere quello che non deve fare è tanto. Il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno, per la compagnia. Mark Twain. Il demonio non può nulla sulla volontà, pochissimo sull'intelligenza, e tutto sulla fantasia. Vecchio da non poterlo più conquere. 263. La libertà nel matrimonio è anzitutto liberazione dalla propria paura di fronte all'altro. 264. 265. Esistono insuccessi che rivelano meglio dei successi quello che è insito nel più profondo di. I piaceri del mondo sono la pubblicità del di. 266. Spesso si condanna volentieri il piacere sessuale gastronomico, ma non si denuncia mai il piacere intellettuale o spirituale. 267. Il rifiuto di riconoscere ogni valore spirituale al piacere sessuale e all'erotismo è un grave errore teologico. 268. Litigare significa dimostrare che l'altro è in errore. Ilael. 269. Non è possibile che una buona volontà, se è veramente buona, divenga irosa e inquieta quando incontra opposizione. Lutero. 270. Se cerchi la verità, alla fine puoi trovare il conforto, ma se cerchi il conforto, non raggiungi il conforto nella verità, bensì sentimentalismo e ostinazione al principio, e alla fine disperazione. 271. L'uomo caduto non è solo una creatura imperfetta che ha bisogno di migliorare. È un ribelle, che deve deporre le armi. Dilelle. 272. Molto spesso Dio ci aiuta a raggiungere, non la virtù stessa, ma semplicemente la forza di continuare a ritentare. 273. Dio non esaudisce sempre tutti i nostri desideri, ma mantiene sempre tutte le sue promesse. 274. 275. Il pentimento che non porta con sé un cambiamento di condotta non è vero pentimento. Il peccato che ti separa da Dio è una gran brutta cosa, ma ancor più brutto è nasconderlo, anziché cercare di liberartene. 276. Secondo i maestri cristiani, il vizio per eccellenza, in confronto a questo, l'impurità, la collera, l'avarizia, l'ubriachezza e via dicendo non sono se non punture di zanzare. 277. La tragedia della vita è ciò che muore dentro un uomo mentre egli è ancora vivo. Schweitzer. 278. Solo donando si sa che cosa significhi il possesso assoluto. Tutto quello che non siete capaci di dare vi possiede. 279. Gli attori recitano la parte come fosse realtà, mentre ci sono cristiani che vivono il cristianesimo come fosse una farsa. 280. L'abito non fa il monaco, ma fa l'opinione degli altri. 281. Giornate troppo quiete passate con Dio possono essere una trappola. 282. 283. La forza che spinse Paolo al servizio non è l'amore per gli uomini, ma l'amore per Gesù. Il servizio è il risultato delle azioni adatte alla mia natura. 284. La fede non è credere alle parole di Gesù, ma a Lui stesso. 285. Essere in una tale costante comunione con Dio da non aver mai bisogno di domandargli quale sia la sua volontà, significa avere quasi raggiunto lo stadio finale di disciplina della vita di fede. 286. Lo scopo della preghiera è quello di imparare a conoscere meglio Dio. 287. Molti dei dolori che abbiamo come cristiani hanno la loro causa non tanto nel peccato, quanto nell'ignoranza delle leggi che regolano la nostra natura. 288. Lascia naufragare una vita. 289. Un credente esemplare può diventare un intoppo se non presenta la persona di Gesù. 290. Molti di noi sono fedeli alle loro idee su Gesù Cristo, ma quanti lo sono a Lui come persona? 291. La vita eterna non è un dono che proviene da Dio, ma è Dio che ci è dato in dono. 292. Essere deboli pur avendo a disposizione la forza di Dio è un vero crimine. 293. Se Gesù ci avesse dato un ordine senza contemporaneamente darci la capacità di eseguirlo, sarebbe un mentitore. Se noi rifiutiamo di ubbidire col pretesto di incapacità, stiamo dicendo a Dio che non ha preso in considerazione tutto ciò che il suo ordine comporta. 294. Siamo chiamati ad annunziare la libertà di coscienza e non libertà di opinioni. 295. Occorre molto tempo a Dio per toglierci dalla mente l'idea che chi non ha i nostri stessi punti di vista stia sbagliando. 296. Il pericolo che ci insidia è sempre quello di dimenticare che, se da parte nostra non possiamo le vicende che affrontiamo possono farci diventare mostri o santi. Dipende tutto dalla relazione che abbiamo con Dio. 298. L'atteggiamento che abbiamo verso la preghiera e l'uso che facciamo della preghiera stessa dipendono dal concetto che abbiamo di essa. 299. L'uomo obbedisce facilmente all'impulso di fare ciò che riconosce come una cosa necessaria. 300. Dobbiamo imparare a parlare, non ripetere le parole di Dio. 301. 302. Sintesi del mio rapporto con Dio. Ho sempre ringraziato, ho spesso considerato, ho chiesto. In genere, alla dedizione a Gesù, la gente preferisce quella alla causa che egli ha iniziata. E. 303. Un sorriso non costa nulla, ma vale molto. Arricchisce sia chi lo dona, sia chi lo riceve. Non dura che un istante, ma il suo ricordo può durare a volte tutta una vita. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, e così povero da non poterlo dare. F. Faber. 304. C. È una confidenza in Dio che ha la sua sede nell'immaturità. 305. La Sacra Scrittura ci vuole insegnare come si va in cielo, e non come va il cielo. 306. Non colui che molta sa, ma colui che sa cose utili è saggio. Eschilo. 307. Lo scoraggiamento non è che l'amore di se stessi che arriva a perdere ogni illusione. E questo amore di se stessi può anche essere amore per la propria devozione a Gesù. Ozonaiken i Chambers. 308. Dio deve continuamente allontanare da noi i nostri amici, così che gli sia possibile prendere il loro posto. Il miracolo è un intervento di Dio dove egli si compiace rimanere nascosto. 309. 310. Non è tanto lo scherno dei critici o le argomentazioni degli infedeli quanto la incoerenza dei suoi seguaci che distrugge l'effetto della cristianità. 311. Colui che aspetta una grande opera per volta non conclude mai nulla. 312. Poche cose riescono bene al primo colpo. I fallimenti sono i segnali sulla strada del successo da raggiungere. 313. Non è colui che ha talento, ma colui che è consacrato che serve meglio il Signore. 314. Essere timoroso di fare errori è l'errore che alcuni fanno spesso. 315. Molti uomini rifiutano la Bibbia, non perché essa si contraddica, ma perché contraddice loro. I sermoni che hanno più valore sono quelli fatti uomo a uomo. 316. 317. Un ateo diceva, vi è una sola cosa che guasta tutto il piacere della mia vita, la paura che la Bibbia sia vera. 318. Non sono le difficoltà che rovinano la vita di un uomo, quanto piuttosto le sue debolezze di carattere. 319. Non tutti sono chiamati ad essere martiri, ma tutti devono partecipare al martirio. 320. Il modo più veloce per essere sicuri di una vocazione e di prendere su di sé una croce specifica connessa con la vocazione stessa. 321. Solo chi è tormentato può tormentare gli altri. 322. Il desiderio di Cristo di salvarmi è più grande del mio desiderio di essere salvato. 323. Vi è maggior saggezza in un dubbio onesto che in alcune certezze apparenti. 324. Il valore della lettera di una persona amata non dipende dalla personalità del postino. Così è il cristiano quando evangelizza. 325. Che genere di uomo doveva essere stato Gesù se, dopo 2000 anni, è ancora necessario tanto sforzo per convincere gli uomini che era soltanto un uomo? Wombrand. 326. La capacità di fare il male è la capacità potenziale di fare il bene. 327. L'uomo forte deve imparare ad essere solitario. 328. Nessuno può fare tutto senza fare di tutto un pasticcio. 329. la religione di un uomo è meno importante di un uomo che ha la religione. 330. Molti conoscono solo due alternative, o vita senza Dio, o Dio senza vita. Il cristiano deve abbandonare il peccato, non le cose che ci permettono di godere la vita. 331. Questo mondo è un ponte. Percorrilo, ma non costruirvi una casa. 332. Chiediti seriamente quanti consigli sei pronto a ricevere tu stesso. Questa dovrebbe essere la dose di consigli da dare agli altri. Il verbo essere non esiste in ebraico. Solo Dio è il possessore di ogni cosa. 333. 334. Sono le pecore e non i pastori a fare gli agnelli. 335. Per fare le cose che siamo chiamati a fare, dobbiamo smettere di fare le cose che non siamo chiamati a fare. 336. La personalità di un individuo può dirsi formata quando giunge a realizzare un equilibrio tra i bisogni propri e quelli degli altri. G.C. 337. Non ci è lavoro più faticoso e più logorante dell'odiare. L'odio lavora senza sosta giorno e notte. Sgretola anima e cervello. Bisogna essere molto sciocchi per nutrire odio. G.C. 338. Soltanto chi è libero dall'ossessione di se stesso è disponibile. G.C. 339. La solitudine peggiore non sta nel non avere nessuno vicino, ma nel non poter comunicare se stessi a qualcuno. G.C. 340. La solitudine peggiore non sta nel non avere nessuno vicino, ma nel non avere nessuno che ci aspetta. 341. Una persona si dona o si possiede nella misura in cui dona o possiede il suo sentimento. G.C. 342. L'uomo vero accetta il limite senza soccombere sotto l'angoscia del limite. Sa riconoscersi debitore senza sentirsi umiliato e sa chiedere perdono senza sentirsi sconfitto. G.C. 343. Per una percentuale altissima le persone sono come le vediamo noi e noi le vediamo come decidiamo di vederle. G.C. 344. L'egoismo è un regalo della natura, ma la solidarietà è una conquista. G.C. 345. Non è la presenza che conta, ma il modo di essere presenti. G.C. 346. Un problema discusso è più vicino ad essere risolto, non perché si trovi subito la soluzione, ma perché si individua con maggiore lucidità la strada migliore per cercarla. G.C. 347. Chi vede male non può guidare bene né l'automobile né la vita. G.C. 348. L'uomo è un libro molto singolare. Non si lascia prendere in mano, sfogliare e leggere da chiunque. E lui l'autore che si apre e si legge chi vuole, le pagine che vuole, quando vuole. Lui dice e si commenta. E questi libri, si sa, sono tutti diversi, ciascuno in un unico esemplare. Giuseppe Colombero, sacerdote e psicoterapeuta. 349. I perduti godono per sempre l'orribile libertà che hanno voluta e si sono perciò fatti schiavi di loro stessi. D.L. I cristiani sono figli di Dio, agli ordini di Dio per l'opera di Dio. Il matrimonio perfetto è quando i coniugi si accettano di non essere perfetti. E il dolore è la sola moneta internazionale che il mondo abbia voluto. 350. 351. 352. 353. Le buone parole valgono molto e costano poco. 354. L'uomo di successo è quello che sa costruirsi solide fondamenta con le pietre che gli altri gli scagliano. 355. 356. Il Signore ci ha dato dei comandamenti, non ha parlato di emendamenti. Il cristiano deve essere un termostato, non un termometro. Il termometro prende la temperatura dall'ambiente, il termostato regola tale temperatura. 357. Tu critichi i miei difetti, eppure sono proprio essi che hanno fatto sì che ti scegliessi come mio coniuge. 358. semina un pensiero e mieti un'azione. Semina un'azione e mieti un'abitudine. Semina un'abitudine e mieti un carattere. Semina un carattere e mieti un destino. Il Dio dei cristiani è il Dio della seconda possibilità. 359. 360. Quando l'uomo parla, il Dio ascolta. Quando l'uomo agisce, il Dio interviene. 361. Il perdono per essere reale deve pagare un prezzo. 362. La vita cristiana è una vita sostituita, non cambiata. N. 363. 364. Il dolore è il megafono di Dio per svegliare un mondo sordo. Io non mi consacro per essere un missionario o un predicatore. Mi consacro a Dio per fare la sua volontà. IN. Il nostro Padre Celeste non ci toglie mai qualcosa per farci più poveri. 365. 366. La paura crea ciò che teme. 367. Dio ci ha accettati a peso lordo, cioè con tutta quella parte della nostra personalità che è già stata giudicata da Lui. Nietzsche. 368. La preoccupazione è un ciclo di pensiero inutile che gira attorno ad un centro di paura. Eugenia Price. 369. Tutti i discepoli di Cristo sono cristiani, ma non tutti i cristiani sono discepoli. 370. Nel corpo di Cristo, le persone si trovano separate le une dalle altre, non tanto perché hanno peccato, ma perché hanno troppo orgoglio per ammetterlo. Non siamo divisi a causa di un disaccordo teologico, ma perché siamo troppo orgogliosi per imparare gli uni dagli altri. 371. La gentilezza è l'unica lingua che il sordo può udire e il cieco vedere. 372. La verità ha bisogno di testimoni più che difensori. 373. Le promesse di Dio sono come gli assegni, non servono a nulla se non li riscuotiamo. 374. Non esiste una necessità tanto grande che non abbia le sue adeguate promesse. 375. Nel Nuovo Testamento la dottrina è grazia e l'etica è gratitudine. 376. Prima o poi, la guida di Dio che ci porta dalle tenebre alla luce, ci porterà anche dalla luce alle tenebre. Amos 4:13. 377. L'amore non è fusione, ma una relazione tra due persone che mantengono la loro personalità. 378. Più che consigliare è meglio riconciliare. 379. Un uomo in pace è un uomo guarito anche quando si trova nell'infermità. 380. Un impegno non si compie senza rinunce. 381. Onorare la verità più che non l'idea che su di essa ci siamo già fatti significa essere liberi dai preconcetti. 382. Le difficoltà dell'uomo sono le opportunità di Dio. 383. Se io chiedo a Dio o a un essere umano di perdonarmi, devo anche essere pronto a cambiare vita. 384. Non basta evitare quello che è sbagliato, bisogna anche incominciare a fare quello che è giusto. 385. Non è importante quello che vogliamo ottenere dal Signore, importante è che desideriamo il Signore. 386. La tragedia della vita non è morire, ma non sapere come vivere. 387. Quello che possedete oggi nel mondo passerà nelle mani di un altro dopo la vostra morte. Quello che siete sarà invece sempre vostro. 388. Il più grande pericolo è una religione senza lo Spirito Santo, un cristianesimo senza Cristo, un perdono senza pentimento, una redenzione senza una nuova nascita e un paradiso senza inferno. 389. Gesù Cristo è la via e non un indicatore stradale, la verità e non qualcosa di vero, la vita e non qualcosa di vivo. 390. La migliore cosa che un uomo può fare per i suoi figli è amare la loro madre. 391. Di fronte al peccato non occorre cercare il discernimento. Devi avere paura di non aver cominciato a vivere. 393. Dio non è un distributore automatico. 394. Fino a quando i cristiani non avranno motivi più elevati nell'offrire la preghiera, fino a quando non si elevi al di sopra dei sospiri di tenerezza materna e paterna, fino a quando non saranno spinti da sentimenti di simpatia, le loro preghiere e le loro fatiche avranno ben poco effetto. Finney 395. Quello che non va in noi, fondamentalmente, non è il fatto di non conoscere la luce, ma di non reagire alla luce che abbiamo. Il comportamento religioso non si preoccupa dei principi, ma di seguire la volontà di Dio. 396. La grazia di Dio accetta l'inaccettabile. 397. 398. La peggior cosa non è sbagliare, ma essere sicuri di non sbagliare. Di 399. Vi sono molti piaceri. Nessuno è obbligatorio. Si tratta di scegliere il più liberamente e il più seriamente possibile. 400. Essere un uomo onesto significa riconoscere e confessare che si manca di onestà. Tic. 401. Nel momento stesso in cui si sacralizzano cose profane, si dissacrano cose sacre. Tic. 402. La Bibbia denuncia non tanto il peccato evidente dei cattivi, quanto il peccato nascosto dei giusti. Tic. I poveri sono frustrati, i ricchi sono insoddisfatti. Tic. 403. Sono le persone più ricche che si sentono maggiormente minacciate dalla rovina. T404. Si è sempre prigionieri del proprio liberatore. T405. 406. Stare con Cristo in teoria significa essere con Satana in pratica. N407. Un cane bastonato non scodinzola. E408. La legge è stata istituita dai deboli per difendersi dalla violenza dei forti. Tichi 409. L'amore ha i suoi tempi, non delle scadenze. 410. 411. La vita è neutra. Le circostanze non fanno altro che mettere in evidenza chi siamo. Il pensiero determina l'uomo. Nostro carattere. Le nostre inclinazioni. E 412. C è una deformazione della radicalità cristiana che si chiama fanatismo, e C è una deformazione della moderazione cristiana che si chiama tiepidezza. 413. L'amore è un tesoro che si moltiplica per divisione, è l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. 414. L'intelletto cerca, ma chi trova è il cuore. 415. 40 anni è una età terribile perché diventiamo quello che siamo. 416. Alcune delle più grandi imprese del mondo, la felicità è trovare piacere in ciò che ottieni. Il guaio dell'ignoranza è che acquista fiducia in sé col passare del tempo. 417. 418. 419. Amare è rischiare di non essere amato e risposta. Vivere è rischiare di morire. Sperare è rischiare la disperazione. Ma il più grande azzardo nella vita e non rischiare nulla. Chi non rischia nulla non fa nulla e non ha nulla. Alla fine è nulla. 420. Non devo essere utile al prossimo lontano a spese di quello vicino. 421. E, un povero cuoco quello che non si lecca le dita. 422. Il presente è come una nota musicale che da sola non significa proprio nulla se non la si collega a ciò che è venuto prima e ciò che verrà dopo. 423. Essere sconfitti è spesso una condizione temporanea. Darsi per vinto è ciò che la rende permanente. 424. Amare ed essere amati è sentire il sole da ogni lato. 425. C. È chi si aspetta che la porta dell'occasione si apra con il telecomando. 426. Ogni fiocco di neve in una valanga dichiara la sua non colpevolezza. 427. Il cristianesimo è decaduto da fede a religione, da cardine a ornamento, da salvezza a consolazione. 428. Occorrono entrambi il sole e la pioggia per formare l'arcobaleno. 429. Occorre un po' di vento contrario per far salire un aquilone. 430. E, più importante che Gesù abbia messo il suo piede sulla terra piuttosto che l'uomo abbia posato il suo piede. Doppilari 432. Volere la volontà di Dio significa qualche cosa di più che accettarla senza protestare. Si tratta piuttosto di sceglierla con ferma determinazione di adempierla. Tu 433. L'uomo per mezzo della ragione non può conoscere Dio, ma può conoscere solo cose intorno a Dio. 434. Dio ha delle conclusioni che sono meravigliose. 435. Certi cristiani sono talmente spirituali che non sono buoni a nulla sulla terra. 436. Tutto il nostro ragionare si riduce a cedere al sentimento. 437. Chi sposa una figlia del diavolo, prima o poi, avrà dei problemi con suo suocero. 438. Nel venire al mondo tu piangi e gli altri sorridono intorno a te. Fai in modo, nell'abbandonare la vita, che tutti piangono e che tu solo sorrida. 439. Il miglior sistema per giudicare il carattere di una persona è quello di non ascoltare quello che gli altri dicono di lui, ma quello che lui dice degli altri. 440. Non sarai mai un santo se non imparerai a convivere con quel poco di diavolo che sei l'Iscar. 441. Colui che non è riconoscente per tutte le buone cose che possiede sarebbe certamente infelice anche se possedesse tutte le cose che desidera. 442. Per mostrate loro ciò che ha fatto per voi. 443. Noi dobbiamo... 444. Dobbiamo imparare a seguire la volontà di Dio e a diffidare della nostra intelligenza. Dobbiamo ide. 445. Agli occhi della fede non ci sono incidenti ma solo eventi. 446. Molti accettano il Cristo della croce ma rifiutano la croce di Cristo. 447. Spesso noi ci preoccupiamo di più ad avere le idee giuste su Dio che di sapere quelle che Egli può avere su di noi. 448. Se Dio può fare a meno della nostra intelligenza, quanto più può fare a meno della nostra ignoranza. 449 e S 450. Gli errori diventano sempre grandi dove l'amore è piccolo. L'amore è piccolo. La necessità impone. E 452. Di fronte a Dio non vi può essere neutralità. O temiamo l'ira futura o amiamo la grazia presente. Il talento è un duro lavoro fatto in modo corretto. Il solo modo di vedere l'arcobaleno è di guardare attraverso la pioggia. 453. 454. 455. Sessualità riuscita, desiderio di fare l'amore con il vostro compagno. 456. Non sono le cose che ci turbano, ma l'opinione che abbiamo di esse. 458. Chi non ha un rapporto con Dio non ha altra scelta che dipendere dai propri sentimenti e fidarsi della propria autorealizzazione. 459. Se vuoi essere compreso dagli uomini, parla. Se vuoi essere compreso dalle donne, taci. 460. Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso regolare le mie vele in modo da arrivare sempre a destinazione. 461. Ciò che siamo è il dono di Dio a noi. Ciò che diventiamo è il nostro dono a Dio. 462. Le cose più belle della vita non costano nulla. I campi in fiore, gli amici, l'amore, le risate, le stagioni, una passeggiata. 463. Il matrimonio è una intimità profonda, conservata dalla volontà e rafforzata dall'abitudine. T. 464. Un carro di virtù, trascinato dall'orgoglio, porta alla perdizione. Un carro di peccati, trascinato dall'umiltà, porta alla salvezza. Gregorio di Nissa. 1 VD. C. 465. La riconoscenza costa poco e paga bene. 466. L'importante non è avere ragione oggi, ma non aver torto domani. 467. Aiutare è rischiare. 468. 469. Chi in alto non sale, la pianura non vede. 470. L'amore e accettazione delle reciproche fastidiose diversità col desiderio di raggiungere il diavolo trova lavoro per mani pigre. Faticoso traguardo di un vita in comune, Elena. 471. L'amore non è un tenero idillio, ma una faticosa conquista. 472. 473. Il più grande impedimento, la paura. Il giorno migliore, oggi. La cosa più inutile, l'orgoglio. L'errore più grande, abbandonare la lotta. La più grande tranquillità, aver finito bene un lavoro. Le persone più sgradevoli, coloro che si lamentano sempre. Il più grande fallimento, perdita dell'entusiasmo. 474. Non ci sono problemi coniugali, solo problemi individuali. 475. 476. È più importante scoprire ciò che Dio mi vuol dire in un periodo difficile, che uscire da Deita. Il perdono non si conquista, ma si riceve. Questo periodo. 477. Assicuratevi che valga veramente la pena di morire per ciò per cui morite. 478. Le scelte della vita, non le coercizioni, rivelano il carattere di un uomo. 480. Quando Dio vuole fare una casa meravigliosa comincia con una difficoltà. Quando vuol fare una cosa più che meravigliosa comincia con una impossibilità. 481. Prima stabiliamo noi le nostre abitudini, poi le nostre abitudini decidono su noi. 482. L'amore troverà una via, l'indifferenza una scusa. 483. Perdonare di cuore significa sciogliere buone intenzioni dal campo dei sentimenti, portandole nel campo del volere. 484. Se uno non è grato per le cose che ha, non sarà nemmeno felice con le cose che desidera. Le bugie peggiori sono quelle che assomigliano alla verità. 487. Quando sei di nuovo scoraggiato, pensa a ciò che disse Gesù ai pescatori. Essi dovevano ributtare ancora una volta le reti in acqua. Era lo stesso luogo in cui avevano pescato tutta la notte senza pescare. 488. La pigrizia è il rifiuto di collaborare con Dio al tuo proprio perfezionamento. 489. Si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi fino alla vecchiaia. 490. Non colche, è posto per Dio in un cuore che è pieno di sé. 491. Tu fai il possibile, Dio farà l'impossibile. 492. La lode è il modo dell'amore che ha sempre in sé un sentimento di gioia. Di allot, 493. 494. Dio non apprezza quello che non inizia. 495. Quante volte ci sforziamo di lavorare per Dio col limite delle nostre incompetenza? Il mondo nel cuore è più pericoloso di quello intorno a noi. Piuttosto che col limite dell'onnipotenza di Dio, Taylor. 496. Essere umani significa cambiare, essere perfetti significa cambiare spesso. 497. Forse non riuscirai a capire tutto ciò che leggi nella Bibbia, ma potrai ubbidire a tutto quello che capisci. 498. L'uomo che gode intimità con Dio non sarà mai intimidito dall'uomo. 499. Vivere con un santo è molto più estenuante che esserlo. Robert Neville. 500. Coloro che sanno distinguere un ciottolo da una montagna eviteranno tanti fastidi. 501. La sofferenza è più facile da sopportare se non vediamo in essa una perdita. 502. Colui che sa apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo sarà sempre pieno di sole. 503. Colui che pensa prima di agire e prega prima di pensare evita tante stupidaggini. 504. Chi sa guardare con attenzione le piccole cose e serenamente quelle grandi andrà lontano nella vita. 505. E meglio sbagliare che sbadigliare. 506. La povertà, una marcata privazione di benessere. 507. Non puoi essere salvato attraverso le tue opere, ma non puoi nemmeno esserlo senza di esse. E 508. Io e te non siamo amati da Dio perché abbiamo qualche valore, ma abbiamo un qualche valore. Perché siamo amati da Dio? 509. Non ci è persona più povera di quella che ha solo dei soldi. 510. Daniele ha preferito passare una notte con i leoni che un giorno senza preghiera. 511. La nostra meta non sia lo straordinario, ma fare le cose ordinarie in modo straordinario. 512. L'ultima lacrima asciugata sarà quella che Dio asciugherà da suoi occhi. 513. La sofferenza è un'amplificazione del sentire nella direzione della negatività. 514. Una fine che segna un inizio. 515. Vi servite di Dio per risolvere i vostri problemi, o usate i vostri problemi per trovare Dio. 516. Se non sei pronto di sentire la verità, non devi chiedere il parere degli altri. 517. Alcuni si lamentano perché le rose hanno le spine. Io mi rallegro perché le spine hanno le rose. 518. Alcuni di noi sono così ansiosi di evitare l'inferno da dimenticare di far festa nel proprio viaggio verso il cielo. 519. L'importante non è essere perfetti, ma di non commettere errori fatali. E 520. È più coerente un ateo che pecca perché non crede in Dio, che un cristiano vivere male e crede alla resurrezione. E 521. Ci sono cristiani che hanno come hobby la profezia del ritorno di Cristo. Sono talmente occupati con il suo ritorno che non sono occupati finché ritorna. 522. Imparare ciò che l'Eterno ci vuole insegnare attraverso i dolori e problemi è molto più importante che risolverli. 523. I nostri errori non sono così dannosi come il rifiuto di correggerli quando li abbiamo scoperti. 524. L'Eterno è pronto di darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, quando ne abbiamo bisogno. 525. Mettersi insieme è un «non posso fare tutto, ma posso fare qualcosa». Ciò che sono in grado di fare, ho intenzione di farlo. 528. Un abbraccio è un dono perfetto. E bitaglia unica. E nessuno si arrabbia se lo si scambia. 529. Nessuno faccia troppo. Nessuno faccia troppo poco. Tutti facciamo qualcosa. 530. Siamo più simili a bestie quando uccidiamo. Siamo più simili a uomini quando giudichiamo. Siamo più simili a Dio quando perdoniamo. 531. Se la tua visione è da qui a un anno, pianta grano. Se la tua visione è da qui a 10 anni, pianta alberi. Se la tua visione è per il tempo di una vita, pianta persone. 532. Credo nel sole anche quando non lo vedo. Credo nell'amore anche quando non sono innamorato. Credo in Dio anche quando rimane in silenzio. I desideri sono come una scala. Tanto più sali, tanto più ti senti meno sicuro. I nonni sono come cavalli selvaggi, domati dai figli perché possano poi cavalcarli i nipoti. 533. Quando è abbastanza buio gli uomini vedono le stelle. 534. Se fai quello che hai sempre fatto sarai quello che sei sempre stato. 535. Non puoi compensare la tua mancanza di direzione aumentando la velocità. 536. Dio non esaudisce tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse. 537. Dio non ci ha promesso un viaggio tranquillo, ma un buon arrivo. 537. Dio non ci ha promesso un viaggio 543. La felicità è come il sole, sorride e poi tramonta. 544. Dove tuona un fatto ha prima lampeggiato un'idea. 545. Quando i gamberi vecchi vanno indietro, i giovani non vanno avanti. 546. Tre asini e un ignorante fanno 4 bestie. Per conoscere la verità bisogna ascoltare 2 bugiardi. 548. Chi giudica la chiesa alla quale appartiene giudica se stesso. 549. Pentirsi è bene, non peccare è meglio. 550. Avremo tutta l'eternità per celebrare le vittorie, ma abbiamo solo un breve tempo per riportarle. 551. Una persona pessimista guarda una perla e si aspetta un'epatite virale. 553. Un pessimista è qualcuno che sta male quando sta bene per paura di star peggio quando starà meglio. 554. Preoccuparsi significa sprecare il tempo di oggi per ostacolare le opportunità di domani. Con i problemi di ieri. 555. Chi ti dice che non devi mai preoccuparti delle piccole cose non ha mai provato a dormire. Nella stessa stanza con una zanzara. Il miglior esercizio del cuore consiste nel chinarsi e risollevare da terra qualcuno. 556. Non sono né ricco né famoso, ma ho dei nipotini di inestimabile valore. 557. 558. Non sono solo una casalinga, sono una dea domestica. 559. Il segreto di occuparsi di un bambino con successo consiste nel non essere sua madre. 560. Signore, fa che le mie parole siano tenere e dolci, perché può darsi che domani debba rimangiarmelo e spegnere la lampadina perché si è fatto giorno. 563. Le acque torbide diventano limpide infrangendosi. Le anime nobili si fanno distandosi. 564. Se il significato della vita non si chiarisce presto, dovrò chiedere una proroga. 565. Rinuncia al bisogno di aver sempre ragione. Vuoi aver ragione o essere felice? 566. Signore, quando ho torto, dammi la forza di cambiare. Quando ho ragione, fa che sia facile vivere con me. 567. I figli sono una grande consolazione nella vecchiaia. Ti aiutano anche a raggiungerla più velocemente. 568. E meglio dimenticare e sorridere che ricordare e tormentarsi. 569. Ciò che imbastiamo nel tempo lo indosseremo nell'eternità. 570. Un amico sa tutto di te e ti vuole bene lo stesso. 571. Alcune persone portano la felicità ovunque vadano, anche quando se ne vanno. Morte. 572. Se mai dovessimo sbagliare, a giudicare che sia dalla parte della pietà. 573. 574. Chi dice di dormire come un bimbo di solito non ne ha mai avuto uno. 575. Vivi ogni giorno come fosse l'ultimo. Un giorno o l'altro avrai ragione. 576. Per essere presente nei ricordi dei tuoi figli domani, devi essere presente nella loro vita. Il pessimista è colui che crede che se la tazza trabocca dovrà pulire tutto il pavimento. Oggi. 577. Certe persone sottolineano i difetti degli altri come se in cambio ci fosse una ricompensa. 578. L'unica condizione per amare è amare senza condizioni. 579. Dio ama i cristiani che gli ronzano attorno. 580. Piove sui giusti e sugli ingiusti. Chi si bagna sono i giusti, perché gli ingiusti gli hanno rubato gli ombrelli. 581. Alla lunga può darsi che il pessimista abbia ragione, ma intanto l'ottimista si è goduto il viaggio. 582. L'attenzione è l'intenzione di capire l'altra persona. 583. La sofferenza non può essere lavata a secco. Deve essere lavata con le lacrime. 584. La vita è una faccenda troppo seria per non essere presa con umorismo. 585. Godi le piccole cose. Un giorno potresti guardarti indietro e scoprire che erano le più importanti. 586. L'unico modo per vivere felicemente con le persone è non far caso ai loro difetti e ammirare le loro virtù. 587. Sappiamo che Dio ha le risposte, ma non sempre le rivela. 588. Parlare è condividere, ascoltare è voler bene. Parlare è condividere, ma ascoltare è comprendere. 589. Sorridi. Può darsi che non ti faccia sentir meglio, ma sicuramente farà sentir meglio qualcun altro. 590. Ogni giorno arriva recando i suoi doni. Sciogli i nastri. 591. Può darsi che tu non conosca tutte le risposte, ma può darsi anche che non ti vengano rivolte tutte le domande. 592. Dio non ci ha promesso di darci tutte le risposte, ma ci ha promesso la sua grazia. 593. Più semplice rendiamo le cose ai nostri figli, più difficile sarà la loro vita. 594. La mente pensa, le mani lavorano, ma è il cuore che ride. 595. Sono necessarie solo due cose per rendere felice una moglie. Una è farle credere di averla vinta. L'altra è fare in modo che l'abbia vinta. 596. Una donna sposa un uomo aspettandosi che cambia, ma lui non cambia. Un uomo sposa. Una donna aspettandosi che non cambi, e lei cambia. 597. Vivere nei cuori che lasciamo dietro a noi, punto equivale a non morire. 598. Se l'ignoranza è beata, perché non ci sono persone più felici? 599. Ho imparato ad accettare la vita e la morte, ma qualche volta è quello che sta in mezzo, che crea dei problemi. 600. Chi è pieno di gioia predica senza fare prediche. 601. Per la maggior parte dei miei problemi, o non ci è soluzione, o la soluzione è peggiore del problema. 602. La vera bellezza consiste nell'avere un cuore contento e uno sguardo sereno sulla vita. 603. Anche su un mucchio di letame può nascere un fiore, o qualcosa di buono. 604. Una persona bene informata è una che ha le vostre stesse idee e le vostre stesse opinioni. 605. 606. 607. Le circostanze sono come un letto di piume, piacevole per chi ci sta sopra, ma soffocante. Il dolore è inevitabile, l'infelicità è facoltativa. In molte difficoltà qualcosa posso cambiare, il mio atteggiamento. Per chi sta sotto. 608. Pregare e chiedere la pioggia. Avere fede e portare l'ombrello. 609. La chiesa dovrebbe essere un ospedale per i peccatori, non un albergo per i santi. 610. Si può avere un'ex moglie o un ex marito, ma mai un ex figlio. 611. Quando i genitori hanno un figlio che non riesce o non vuole inserirsi nel puzzle, si sentono annientati. 612. Se Dio ha veramente intenzione di aiutarmi a risolvere i miei problemi, lo aspetto una giornata di duro lavoro. 613. Che i titoli di Stato maturano. 614. Se siete interessati all'aldilà, ricordatevi che il DI qua determina il DILA. 615. Ridere è come cambiare il pannolino ad un bambino. Non risolve il problema per sempre, ma rende le cose più accettabili per un po'. Sì. 616. Ci sono due teorie per discutere con una donna. Non funziona nessuna delle due. 617. Dio non ti porterà mai dove la sua forza non può tenerti. 618. Dovere senza amore produce tristezza. Responsabilità senza amore produce crudeltà. Giustizia senza amore produce insensibilità. Verità senza amore produce critica ed educazione. Senza amore produce ribellione. Sapienza senza amore produce furbizia e gentilezza senza amore produce ipocrisia. Ordine senza amore produce angustia. Conoscenza senza amore produce presunzione. Potenza senza amore produce violenza. Onore senza amore produce orgogli. Fede senza amore produce fanatismo. 619. La scienza delle cose che si vedono senza dubbio utile, ma quelle delle cose che non si vedono lo sono molto di più. 620. Ricordo sempre ciò che Spurgeon disse a uno che, avendolo invitato a predicare a Londra, gli prometteva un pubblico di 1500 persone ad ogni riunione. Il mio desiderio più vivo non è di predicare a 15.000 persone, ma di fare la volontà di Dio. F.B. Meyer. 621. Ogni pescatore di uomini deve trovare il tempo per assettare le reti. 622. Coloro che non sperano nella vita futura sono dei morti anche in questa vita. 623. Un giorno ho scoperto di aver compiuto un grave errore per la maggior parte della mia vita. Dio ha sempre chiesto me, ed io gli ho sempre dato il mio servizio. Noi abbiamo molto più valore per Lui di tutti i nostri servizi. 624. E, meglio per colui che merita la lode e non l'ha mai avuta di coloro che l'hanno avuta, senza averla meritata. 625. La bugia non ha gambe e non può reggersi, ma padelle ali che può volare in lungo e in largo. 626. Dio non è soltanto un aiuto in tempo di prova, ma anche un grande aiuto per preservarci da essa. 627. Se tu pensi che non sei e non sei nulla, inizia in Dio ad essere con egli poi, nello spirito della libertà, si nostri simili ci legherà. 629. Noi non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo peccatori. 630. Noi non andiamo in cielo perché lasciamo il mondo, ma lasciamo il mondo perché andiamo in cielo. 631. Dio ha creato il mondo, ma il diavolo lo ha preso in affitto. 632. Dio non vuole che camminiamo con la testa in cielo, ma con la testa sul collo, i piedi per terra e con il cuore in cielo. Il denaro è un buon servo, ma un cattivo padrone.